sia preciso. Attenzione, prego. Attenzione, prego. Si è creata una situazione nella quale dobbiamo scoperare il tipo. Perché abbiamo dovuto fare il tipo di attraverso il tipo di attenzione, prego.